Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Continua la sospensione parziale e temporanea della donazione di sangue nel Lazio per la chikungunya. A Obiettivo Salute il dottor Giancarlo Maria Liumbruno, direttore Centro Nazionale Sangue. La chikungunya impone una sospensione della donazione per 28 giorni per i donatori che hanno transitato attraverso le aree affette del Lazio. Per i donatori del Lazio invece la donazione di sangue non è sospesa totalmente, ma può essere donato sangue da chi non è residente nelle aree affette e non vi ha soggiornato, oppure anche da chi non è residente ma vi ha soggiornato, in questo caso viene applicata una quarantena di 5 giorni. Può essere poi donato sia il plasma che le piastrine, i quali poi saranno inattivati. Nelle regioni invece in cui sono stati intercettati i focolai di West Nile virus, un test permette ai volontari di continuare a donare. La differenza principale tra chikungunya e West Nile è che per il West Nile noi abbiamo un test validato per lo screening del sangue e questo ci consente di non interrompere le donazioni. Per la chikungunya ci sono ancora lavori in corso che speriamo possano terminare presto, in modo tale da avere la disponibilità di un test anche per questo tipo di infezione. Sulle pagine di Obiettivo Salute il direttore del Centro Nazionale Sangue fa un quadro della donazione in Italia. Mal di testa da ciclo, un aiuto può arrivare anche dal magnesio. A Obiettivo Salute il dottor Vincenzo Tullo, neurologo e responsabile dell'ambulatorio sulle cefalee di Humanitas. Sicuramente il magnesio può essere un valido aiuto per chi soffre di cefalea durante il ciclo mestruale. La cefalea durante il ciclo mestruale è una cefalea che molte donne sanno essere estremamente violente, invalidante, a volte anche poco responsiva ai comuni analgesici. E proprio questo minerale ci può essere di aiuto, perché il magnesio ha molte funzioni nel nostro organismo, tra cui quella di migliorare la trasmissione degli impulsi nervosi a livello cerebrale, la contrazione muscolare, l'umore. E questo aiuto che ci fornisce il magnesio può anche intervenire sugli attacchi di mal di testa e renderli meno frequenti, meno violenti, meno invalidanti. È preferibile utilizzare il magnesio pidolato e precisamente iniziando da una settimana prima dell'inizio delle mestruazioni fino al termine di queste. E per oggi è tutto, tra qualche minuto parte la nostra diretta Facebook, parliamo di vista, di grandi e di bambini insieme al professor Paolo Nucci. Vi aspetto. L'appuntamento con Obiettivo Salute torna domani, la programmazione di Radio 24 continua con Melog. Buona giornata da Nicoletta.